Andava a piedi nudi per la strada, mi vide come un'ombra, mi seguì, col viso in alto di chi il mondo sfida e tiene ai piedi un uomo conosci. Nel cuore aveva un volo di gabbiani, ma un corpo di chi ha detto troppi sì. Negli occhi la paura del domani, come un ragazzo me ne innamorai. Dormiva sul mio petto, sentivo il suo respiro su di me, e poi mi dava i calci dentro il letto. C'è ancora il suo sapore. Sapere non cercarmi che fine.